Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Chi ci sta in questo labirinto degli dèi? Ci stanno quelli che si sentono al di sopra degli altri, più uguali degli altri, e quindi ci stanno innanzitutto i mafiosi siciliani, perché come diceva Tommaso di Lampedusa, i siciliani hanno il vizio di sentirsi sempre perfetti, come se fossero degli dèi. Però non sono soltanto i siciliani, gli dèi sono anche quei potenti che pretendono impunità, privilegi e autoassoluzione. Quando Antonio Ingroia arrivò la prima volta davanti all'ufficio bunker di Giovanni Falcone, era un magistrato di prima nomina, un giovane siciliano. Lo scatto di quel videocitofono segnò la sua carriera e la sua vita, tanto che oggi, che la barba si è imbiancata e i capelli diradati, per dirla con le sue stesse parole, lui è considerato l'erede di quelle toghe simbolo della lotta alla mafia, l'allievo diretto di Paolo Borsellino, il PM più spesso finito nelle minacce di Cosa Nostra, uno dei rappresentanti della accusa a Palermo contro la mafia che uccide e quella che fa affari. E queste sono le storie di mafia e antimafia che lui ripercorre nel suo Labirinto degli dèi, un libro che è anche un diario attraversato ora partendo da uno degli ultimi casi, il processo al senatore Marcello Dell'Utri, di cui sono state da poco depositate le motivazioni della sentenza d'appello. Ingroia, procuratore aggiunto, è stato in primo grado il PM di quel procedimento. Innanzitutto, ebbene, se parliamo della motivazione della sentenza, sottolineare l'importanza che in questa sentenza è stata riconosciuta la colpevolezza dell'imputato Dell'Utri, si è riconosciuto il fatto che il senatore Dell'Utri ha svolto questo ruolo di supporto all'organizzazione mafiosa, favorendone il suo, diciamo, ingresso nella ricca Lombardia, svolgendo un ruolo di mediatore degli interessi mafiosi, anche per estorcere e per intimorire un ricco e facoltoso imprenditore lombardo qual era a quei tempi Silvio Berlusconi. E quindi credo che il fatto importante è che questa sentenza dimostri che i potenti si possono processare e possono anche essere condannati per i rapporti con la mafia, e che le indagini che in questi anni faticosamente, i processi che sono fatti in questi anni faticosamente dal Procuratore di Palermo, non sono processi inventati, non sono processi sul nulla, sono processi fondati su prove e prove solide che hanno avuto questa importanza autorevole conferma in appello. Poi ci sono alcuni aspetti, una sentenza complessa che si compone di 600 pagine, dobbiamo ancora leggerla con attenzione per evidenziarne vari aspetti. Ci sono delle valutazioni su Spatuzza che personalmente condivido solo in parte. La Corte ha ritenuto pienamente provata la condotta Dell'Utri in favore di Cosa Nostra soltanto per un bel periodo, cioè per un ventennio, dagli anni 70 fino ai primi anni 90, non ha ritenuto provata invece la permanenza di questi rapporti in epoca successiva, dal 92 fino alla metà degli anni 90, perché solo questo poi copriva la nostra l'imputazione del nostro processo. E su questo rispettiamo la sentenza della Corte, non la condividiamo in alcuni aspetti, ritengo che la Procura Generale farà ricorso per Cassazione per questa parte della sentenza. Sullo specifico della vicenda Spatuzza, che aveva creato un grande clamore, lei nel suo libro prende una posizione ben chiara anche sulla vicenda della mancata conferma della protezione a Spatuzza. Si contestano nelle motivazioni della sentenza il fatto che abbia tardi parlato di alcuni passaggi che riguardavano personaggi importanti. Ecco, io quello che vorrei chiederle è questo: è possibile che un passaggio del genere, un passaggio così importante e delicato come quello di Spatuzza, riferito a nomi di peso come possono essere quelli di Dell'Utri, come quello di Berlusconi, un passaggio decisivo della collaborazione di Spatuzza, è possibile che non sapesse di avere un determinato periodo di tempo a sua disposizione e che quindi l'abbia fatto oltre? Non lascia un po' perplessi il fatto che arrivino dopo proprio delle dichiarazioni più forti? Per carità, può inevitabilmente lascia perplessità, si possono avanzare dubbi, ma consideriamo però l'assoluta originalità della vicenda. Spatuzza inizia a collaborare, rende le dichiarazioni su tutto quello che ha da dire entro i 6 mesi come prescrive la legge, riferisce anche questo episodio, perché lo ha riferito, di questo colloquio negraviano in cui gli dice sostanzialmente che le cose andranno bene anche perché si sono raggiunti degli accordi. Non dice che Graviano gli ha detto anche i nomi delle persone con i quali direttamente o indirettamente sarebbero realizzati questi accordi. Però bisogna anche capire, quei nomi non erano due nomi qualsiasi, nome uno del Presidente del Consiglio in carica e l'altro del suo braccio destro. Questo va naturalmente valutato con attenzione, può costituire sintomo di insufficiente attendibilità, per carità, questo va bene, ma che da questo debba conseguire che il collaboratore più importante degli ultimi anni e che per di più è un collaboratore che su un altro fronte, con dichiarazioni dette tutte entro i 6 mesi, sta consentendo alla Procura di Caltanissetta di riaprire pagine fino ad ora rimaste oscure, buie e complicate, diciamo così, sulla stagione dello stragismo, sulla strage di Via D'Amelio, di Borsellino in particolare, mi pare un po' troppo, cioè addirittura arrivare al punto di revocare la protezione a un pentito che sicuramente rischia molto, mi pare troppo, questo è il tema. Lei nel suo libro pone un'alternativa: o è stato un errore o la legge va cambiata. Non voglio fare processi alle intenzioni nei confronti di nessuno, dico però che siccome poi il mondo della mafia, dei mafiosi, degli ex mafiosi come i pentiti sono, un mondo che si nutre anche di simboli, di segnali, di interpretazioni, di letture, di ciò che si fa, potrebbe essere, al di là di quale che siano le intenzioni, è chiaro che le intenzioni sono istituzionali della commissione che ha negato la protezione, la commissione ministeriale ha negato la protezione, ma c'è il rischio che venga interpretato invece come una sorta di punizione per Spatuzza, che non ha detto, perché ha pronunciato dei nomi, diciamo così, impronunciabile, e quindi possa apparire addirittura come un monito a lui o ad altri pentiti di non parlare di certi temi, di non parlare di certi uomini, di pronunciare certi nomi. Ecco, bisogna evitare questo, perché il punto è che è stata revocata la protezione, che io torno lì, revocata la protezione a un pentito che sicuramente rischia, i cui familiari rischiano, e non credo che sia una sanzione adeguata. Poi è giusto che eventualmente c'è un giudice che magari ritenga non attendibile la dichiarazione fuori termine, un altro giudice la riterrà invece magari attendibile, questo ci sta, quello che non ci sta è revocargli la protezione per questo motivo. In un momento soprattutto in cui si indaga anche su revoche di 41 bis, di scenari oscuri quanto mai, forse anche questo è un segnale da un punto di vista simbolico anche. Assolutamente sì, consideri che non tanto tempo fa, ma appena qualche mese fa, Agnese Borsellino, la vedova di Paolo Borsellino, ha fatto un appello agli uomini della mafia perché dicano tutto quello che sanno, agli uomini delle istituzioni perché dicano quello che sanno, gli uomini delle istituzioni della stagione del 92-93, quella delle stragi della trattativa, o gli uomini delle istituzioni di oggi che facciano, esercitino i loro poteri istituzionali, per cosa? Per cercare di fare di tutto perché la verità venga fuori. Allora, se vogliamo accogliere l'appello di Agnese Borsellino, una ottima occasione è questa vicenda della protezione di Spatuzza. O si restituisce la protezione di Spatuzza, ammettendo che forse si è esagerato in un modo un po' troppo rigoroso, un po' troppo severo nell'applicazione della legge con questo provvedimento, oppure si dice che non c'è scelta perché la legge impone un provvedimento di questo genere, e allora si modifica la legge in modo tale che la legge consenta di restituire la protezione a Spatuzza. Quest'ultimo atto importante, appunto, di queste motivazioni della sentenza dell'Utri ci portano ad un altro capitolo che ho trovato anche tra quelli più interessanti, quelli su due personaggi che attraversano due fasi diverse della storia della mafia e dell'antimafia, Vito Ciancimino e il figlio Massimo. Lei li ha conosciuti e interrogati entrambi. Oggi queste motivazioni della sentenza parlano della inaffidabilità di Massimo Ciancimino, quindi il figlio di Don Vito. Le chiedo una sua valutazione su questo, su queste considerazioni, anche se poi invece in altri contesti Ciancimino è stato giudicato in altro modo da altri magistrati, e poi la differenza tra padre e figlio e queste due stagioni diverse. Innanzitutto, per quanto riguarda le valutazioni, naturalmente rispetto alle valutazioni dei giudici d'appello del processo dell'Utri, non le condivido, esprimo anche, devo dire la verità, qualche perplessità sul fatto che ci sia un giudizio negativo di affidabilità non nei confronti di un test che è stato sentito nel processo, ma nei confronti di alcuni verbali di cui la Corte ha avuto contezza. Normalmente i giudici esprimono la loro valutazione soltanto nei confronti di un test che viene sentito nel processo. I giudici invece si sono rifiutati di sentirlo e mi sembra singolare che poi entrino nel merito dell'attendibilità o affidabilità del test. Dopodiché ci sono altre sentenze di giudici che invece hanno sentito Cencimino in dibattimento, lo hanno ritenuto attendibile. Quindi rimane, diciamo, queste divergenti valutazioni, ma valutazioni divergenti che ci stanno, per carità, è normale nella dialettica del processo, specie quando si ha a che fare con vicende così complesse, con testi o comunque fonti di prova come Cencimino, sicuramente sui generis, diciamo, con caratteristiche certamente di una certa originalità. Per quanto riguarda poi la mia esperienza, peraltro non terminata, almeno per quel che riguarda Cencimino figlio, io ho avuto questa coincidenza di ritrovarmi a distanza di 20 anni quasi a interrogare prima il padre e poi il figlio. Cencimino padre era tutt'altra pasta. Cencimino padre era un mafioso, era un corleonese doc, era un uomo benché in carcere, perché l'ho sentito in carcere, vecchio e già un po' malato, era comunque come una belva ferita, un uomo di grande arroganza, che ricordo anche mi trattava anche con una certa supponenza, considerandomi, diciamo, un pubblico ministero ragazzino al cospetto. Troppo giovane, voleva un magistrato più famoso per essere interrogato. Sì, no, perché andavamo a interrogarlo a volte assieme, io e il mio capo dell'epoca, che era Giancarlo Caselli, e quindi quando andavamo assieme lui si sentiva sufficientemente considerato. Quando andavo io ero il giovane ragazzino, non all'altezza di l'ex sindaco di Palermo, collegato ai colonesi e così via. Peraltro io ricordo anche quegli occhi, appunto, tipici del mafioso, noi siciliani li riconosciamo a pelle, con una arroganza connaturale che lo portava al punto di esprimere giudizi sprezzanti su Giovanni Falcone quando Giovanni Falcone era morto soltanto da qualche mese, una cosa inaccettabile che fu anche motivo e oggetto di scontri e di confronti anche abbastanza duro durante gli interrogatori. Certo, lei lo racconta nel suo libro. Sì, Cencimino figlio è un'altra cosa. Cencimino figlio è un personaggio sicuramente lontano dal mafioso, perché non è mai stato un mafioso, almeno non è mai risultato niente in questi termini, figlio di suo padre, nel senso che ha preso dal padre più che altro l'atteggiamento un po' istrionico, perché anche il padre era un po' istrione, però è soprattutto lui figlio, diciamo, della generazione mediatica e televisiva, per cui uno che ama molto comparire in televisione, tiene rapporti con i giornalisti, ha scritto pure un libro. E secondo lei potrebbe essere maturata da qui anche la sua decisione ad un certo punto di esporsi di più e di parlare di più? Sì, io sono convinto che ci sia anche questo ne determina appunto la sua particolarità, per cui va trattato assolutamente molto con le pinze, però d'altra parte ha rotto il muro dell'omertà, proprio in questo suo, diciamo, comunque desiderio di esserci, lo ha fatto rendendo dichiarazioni, molte delle quali sono rivelate attendibili, riscontrate, mentre il padre ad esempio aveva sempre negato i rapporti con Cosa Nostra, il figlio ci ha raccontato come lui sia cresciuto tra Rina e Provenzano, più con Provenzano che con Rina, e come abbia avuto la consuetudine con tanti mafiosi, e ha raccontato tanti retroscena delle vicende che avevano coinvolto il padre. Quindi ci sono naturalmente quegli aspetti a volte irritanti del personaggio Cencimino, ma ci sono aspetti preziosi dal punto di vista giudiziario investigativo. Sicuramente, come lei dice, ha rotto un muro, ma secondo lei si arriverà mai ad una chiarificazione su quei misteri riguardanti la trattativa tra Stato e mafia, che sono strettamente collegati con le inchieste sulla strage di Via D'Amelio? Lei ci ritorna più volte a quel giorno, alla strage di Via D'Amelio, proprio per il suo rapporto così stretto con Paolo Borsellino, è un po' quasi uno dei fili conduttori del suo libro. Secondo lei si arriverà quantomeno ad una chiarificazione di che cosa portò a quella strage e di quali furono i rapporti tra Stato e mafia? Io, diciamo, me lo auguro fortemente. Se vogliamo, questa vicenda Lei dice che costituisce il filo conduttore del mio libro, in effetti è proprio così, ma potrei aggiungere che il filo conduttore è la mia vita, nel senso che il libro riporta e rispecchia la mia, diciamo, percorso professionale umano, un percorso professionale umano che inizia con Paolo Borsellino, si tronca, diciamo, quasi subito, fin dall'inizio, perché Paolo Borsellino era appunto il mio maestro nei primi anni di carriera, e poi da lì mi sono ritrovato a provare a proseguire la sua opera, e soprattutto trovandomi a indagare su vicende in qualche modo collegate a quella strage, al cercare di chiarire il contesto e i fili che si sono mossi attorno a quella strage. Nel frattempo gli anni sono passati, cioè i capelli si sono diradati e la barba si è imbiancata, però voglio dire, tutti questi anni non mi sembra siano trascorsi inutilmente, sono acquisite molte più certezze su quello che accadde in quegli anni. Io mi auguro, e dipende molto da tutti noi però, che nei prossimi mesi e nei prossimi anni si possa arrivare, se non a un chiarimento completo, un chiarimento tale sufficiente da poter celebrare dei processi in cui si individuino tutti gli autori e si chiarisca il contesto nel quale è maturata quella strage e quella stagione di strage. Storielle. Storiacce. Quando Giovanni Falcone festeggiò i suoi 52 anni, Paolo Borsellino gli confidò: «Mi hai fregato, ti invidio, io non so se riuscirò a superarli». Si ricordò di quella profezia Antonio Ingroia quando dalle comunicazioni via radio sentì della bomba a Capaci. Falcone era stato ucciso e pochi giorni dopo sarebbe toccato anche a Paolo Borsellino. A 52 anni erano morti anche il padre e il nonno. C'è una vita e una carriera iniziata al fianco dei magistrati simbolo della lotta alla mafia nel labirinto degli dei, raccontato da Ingroia, il magistrato che ne ha più di tutti raccolto il testimone e che ora indaga anche sui misteri della trattativa tra Stato e Cosa Nostra, sfondo del tritolo di Via D'Amelio in cui morì Borsellino e la sua scorta. Non so se la politica saprà reggere il peso di quelle verità, dubitò il PM di Caltanissetta, Gozzo. E Ingroia cosa ne pensa? Io penso di sì, forse, diciamo, quello del collega fu una dichiarazione un po', diciamo, enfatica, con il quale voleva sottolineare tutta la sua preoccupazione. Io credo che il Paese, certo, che è pronto ad accogliere la verità, bisogna impegnarsi per creare tutte le condizioni perché questa verità venga fuori. Si può pensare che quando si ha a che fare una verità così difficile e complicata può fare tutto da solo la magistratura. Occorrono buone leggi, occorrono incentivi, ad esempio appunto ai collaboratori di giustizia per rendere dichiarazioni anche su cose difficili e imbarazzanti, occorre un clima favorevole e di sostegno e di supporto alla magistratura, occorre una commissione parlamentare antimafia, per la verità lo sta facendo, che si impegna a contribuire nella ricerca della verità, e occorre una società attenta, vigile, che si impegni chiedendo a voce alta che ciascuno dentro le istituzioni faccia il proprio dovere e che quindi crei le condizioni perché verità e giustizia finalmente sia anche su quella stagione. A proposito delle istituzioni, lei racconta nel suo Labirinto degli dei il giorno a Palazzo Chigi. Si aspettava che Berlusconi raccogliesse il suo appello e che quindi decidesse di parlare a proposito della vicenda che riguarda anche il processo dell'Utri? Io ci provai. Il presidente Berlusconi aveva già fatto sapere prima dell'udienza della sua intenzione di avvalersi da Folte Non Rispondere, con un atto un po', diciamo, non dico un colpo di teatro, con un atto un po' a sorpresa, che sorprese perfino il presidente del collegio, del tribunale, che non si aspettava che io intervenissi, intervenni facendo un vero e proprio appello diretto, direi anche accorato, al presidente Berlusconi, richiamando il suo senso delle istituzioni, richiamando la sua sicuramente vicinanza all'imputato dell'Utri e quindi la sua convinzione che dell'Utri fosse innocente, e quindi chiamandolo a collaborare per l'accertamento della verità, chiarendo alcuni punti che sono rimasti oscuri che soltanto lui poteva chiarire vicende che riguardavano Vittorio Mangano, che riguardavano il rapporto con Dell'Utri, che riguardavano anche alcuni anomali movimenti finanziari all'origine del gruppo, della Fininvest, eccetera. E su queste fece un lungo elenco, un lungo appello, che forse il presidente Berlusconi, così io l'ho interpretato, colse un po' come fosse una sfida, e mi è parso che il presidente quasi fosse sul punto di replicare, di rispondere, se non che poi, per carità, del tutto legittimamente intervenne invece il suo difensore, l'avvocato Ghedini, che per ragioni tecnico-giuridiche difensive consigliò al suo assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere, e così Berlusconi fece. Ritengo che quella fu una occasione mancata, un appuntamento perduto di cui poi abbiamo pagato un po' le conseguenze. Quelle parole sono ancora un tassello che manca? Sono ancora un tassello che manca, certo se fossero venute durante il processo avrebbero aiutato quel processo, se venissero oggi aiuterebbero tutti a chiarire un'intera stagione. Lei racconta nel suo libro di Borsellino e del momento in cui le confidò anche le sue perplessità su uno dei suoi collaboratori, sulla possibilità di non avere a fianco persone che non fossero quelle che immaginavano e quelle che immaginava, e quindi di una forma di tradimento. Secondo lei, ecco, davanti a questi quadri, a questi indizi che stanno emergendo su quella stagione, oggi Paolo Borsellino come commenterebbe quegli elementi, questi indizi, chiamiamoli così? Credo che li commenterebbe, è un po' difficile provare a interpretare cosa avrebbe fatto lui al posto nostro. È una forma di tradimento anche questo, visto che diciamo a molti elementi sembrano condurre anche a personaggi diciamo che sono uomini delle istituzioni, che sono uomini della politica, sia pur a vario modo, forse l'avrebbe vista come una forma di tradimento? Io so, perché l'ho percepito da cose da lui dette, l'ho appreso anche da cose, l'ho appreso da amici ai quali lui l'aveva detto, che le cose che andava lui vedendo e percependo negli ultimi mesi, le ultime settimane, lo impressionarono molto. E essendo lui un uomo profondamente delle istituzioni, con un grande senso delle istituzioni, quando scopriva, individuava infedeltà o tradimenti, il dolore e l'amarezza per lui era doppia. E quindi se oggi vedesse tutto questo, penso che da un lato sarebbe profondamente appunto amareggiato e preoccupato per il profilarsi di un contesto così avvelenato da tradimenti e depistaggi, dall'altro però avrebbe proprio perciò trovato motivazione e forza per impegnarsi ancora di più in quelle indagini, ed è quello che noi proviamo a fare. Come sempre vi ricordo che queste e tutte le altre puntate di Storiacce le ritrovate sul sito radio24.it, e da lì potete accedere anche al nostro audioblog. Ciao, a sabato!